24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 5 secondi di questo venerdì 17 aprile inizia la terza parte di 24 Mattino. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Maria, vogliamo iniziare come al solito? Ci vuoi dare un quadretto di quel che hai visto da fuori, da Francia, guarda, Gran Bretagna? In realtà, un po' l'avete anticipato anche voi, la Gran Bretagna per esempio è in difficoltà e prolunga il lockdown, mentre Le Figaro questa mattina, come vedete ogni mattina Le Figaro guarda fuori, il titolo di apertura non parla mai delle cose francesi, dei problemi francesi, ma guarda fuori. Ieri Le Figaro parlava di come cambierà il mondo dei viaggi dopo il coronavirus, e oggi invece dice guardate come l'esempio tedesco ha fatto bene e la Germania ha fatto meglio della Francia, ha fatto meglio di tutti. Però in realtà a me quello che ha colpito oggi, e non so se ne avete già parlato nel corso della rassegna stampa, ma mi ha molto colpito l'intervento di Enrico Giovannini, l'ex ministro che come sapete fa parte della squadra di Vittorio Colao. Perché mi ha colpito? Perché Enrico Giovannini, che da moltissimo tempo con la sua Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile si occupa di pensare al futuro di queste nostre società un po' smarrite, per citare il nuovo presidente Bonomi, ebbene Enrico Giovannini dice dobbiamo ripartire, ma se non capiamo che dobbiamo ripartire dalle diseguaglianze non riusciremo ad ottenere dei risultati. Scrive per esempio che è indispensabile uscire dalla crisi riducendo drasticamente l'evasione fiscale, oltre 110 miliardi l'anno, e ovviamente ricorda che gli aiuti statali andranno sia alle imprese che competono correttamente, sia a quelle che finora hanno fatto concorrenza sleale a quelle corrette, evadendo. Insomma, essendo il primo intervento di uno dei membri della squadra di Colao, un intervento scritto sul Corriere della Sera, mi sembra che dia un po' un'idea del lavoro al quale questa task force si sta dedicando, e speriamo che la facciano lavorare in santa pace, anche se ce ne sono tante, ce ne sono troppe. Un pochino troppe. Vabbè, questa è quella nazionale, vedremo ma che cosa riuscirà a fare. Sul fronte delle diseguaglianze c'è una notizia che è veramente curiosa e arriva dalla Florida, dove un po' come nel film Elysium c'è questa isola che è abitata da americani soprattutto molto ricchi e un po' âgé, diciamo. Ebbene, a differenza di quello che succede nel resto del paese, che avete visto, insomma, sta affrontando un'epidemia, ecco, quest'isola dispone di tutte le misure per controllare se il coronavirus ha attaccato alcuni di loro, e 1250 impiegati e residenti sono stati già testati. Quindi l'isola di Fisher Island in un'isola sono buoni tutti, un po' più difficile in una regione come il Piemonte. Alberto Cirio, buongiorno, presidente del Piemonte, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, negli ultimi giorni il Piemonte ha avuto un incremento dei casi molto forte, Cirio. A cosa lo dobbiamo? Ma noi abbiamo due dati. Innanzitutto abbiamo il dato dei contagi, che evidentemente segnala come il virus sta rallentando in tutta Italia, anche in Piemonte, però in Piemonte meno lentamente che nelle altre regioni. È anche legato al fatto che in Piemonte oggi si processano 5.000 tamponi mediamente al giorno, e che questo dato del numero di tamponi evidentemente influenza anche il dato finale. Ma poi c'è anche un dato pratico, obiettivo, nel senso che la vicinanza con la Lombardia, il passaggio del ceppo lombardo, che è quello che ha contagiato il Piemonte, ha qualche giorno di ritardo. E quello che però è il dato che i nostri medici, il nostro comitato tecnico scientifico ci segnala anche da tenere in considerazione, e che noi abbiamo una media di 10 posti che si liberano di terapia intensiva, che significa che c'è meno pressione ai pronto soccorso, e quindi il dato della meno pressione vuol dire che ci sono meno persone che si ammalano. Quindi sono dati positivi, ma che nello stesso tempo, alla luce del numero dei contagi, debbono imporci quella linea del rigore che io ho voluto dal primo giorno in Piemonte, chiudendo le scuole già da febbraio, quando in Italia se lasciavano ancora aperte, o vietando la partita Juventus-Milan, che ricordate 40.000 persone, sì, per le normative nazionali si poteva disputare, l'abbiamo bloccata con la prefettura di Torino. Quindi la linea del rigore continua, perché i numeri ce lo dicono, ma nello stesso tempo continua anche il lavoro per mettere in sicurezza le attività produttive della nostra regione e farci trovare pronti quando i medici, gli scienziati, perché questa è una emergenza sanitaria, ci diranno che si potrà ripartire. Maria, prego. A questo proposito, presidente Cirio, volete aspettare appunto la linea nazionale, come per esempio dice di voler fare il presidente della regione Emilia-Romagna, Bonaccini, oppure con Zaia e soprattutto con Fontana premete per una fase 2 in azione il prima possibile? Ieri la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa ha detto che se la Lombardia decidesse di riaprire dal 4 maggio il governo avrebbe eventualmente la possibilità di impugnare il provvedimento regionale. Ma guardi, io le dico quello che può valere per la mia regione. I numeri della mia regione oggi mi impongono la linea del rigore e della prudenza. Io non ho riaperto le librerie pochi giorni fa, come non ho riaperto le cartolerie, perché credo che il contenimento oggi in Piemonte, perché me lo dicono i medici, sia ancora un'arma da seguire con determinazione. Non vuol dire non farci trovare pronti quando il momento sarà il momento opportuno, ed è la ragione per cui col Politecnico di Torino noi abbiamo definito un modello, che è un modello di sicurezza certificato dalla scienza universitaria del Politecnico, e che noi stiamo attuando per tutte quante le categorie produttive, cioè lo stiamo sperimentando con un piano che va a verificare settore per settore quali possono essere le condizioni per ripartire in sicurezza. Ma sul quando ripartire, io è evidente che immagino la data di maggio, perché i numeri oggi mi dicono che non potrà essere prima, ma nello stesso tempo dico che saranno i medici a darci questo numero e a darci questa data. Il dovere che io penso debba avere un presidente di regione è, da una parte, almeno per la mia, visto quello che sta accadendo, mantenere rigore e prudenza, però non perdere un minuto di tempo, perché quando questo interruttore si rialzerà noi dobbiamo farci trovare pronti a produrre e a far ripartire l'economia della mia regione in sicurezza. Quindi, per così dire, Cirio, giusto per capire, questa data del 4 maggio, che è una data indicativa, che in realtà è la data di scadenza di fatto del decreto ministeriale, e della data indicata da Fontana, è una data che potrebbe essere quella buona o no? Non riesco a capire. Sì, la data del 4 maggio per noi è la data di riferimento, quindi l'inizio di maggio ovviamente è il riferimento per una, io non la chiamo normalità perché non sarà normalità, per una nuova normalità potremmo definirla. È evidente che però questa è una prospettiva, perché poi sono i dati del contagio che ci diranno, e quindi la scienza che ci dirà se in quel momento ci saranno le condizioni per poter ripartire o meno. Io credo, sulla base degli indicatori che tutti hanno, che ci possano essere le condizioni per cui la prima decade di maggio possa essere il momento opportuno, ma ripeto, andrà certificato soltanto monitorando quotidianamente quella che è l'evoluzione del contagio. Presidente Cirio, una delle fonti che pare accertata di contagio è quella legata ai ricoveri nelle RSA. Avete avuto un problema di RSA anche in Piemonte, le cifre dicono che il 60% dei nuovi contagi comunicati ieri sono stati riscontrati proprio nelle case di riposo. Ci dice che cosa è successo, che spiegazione si dà lei di questo contagio che poteva probabilmente essere evitato? Ma Guardi, è evidente che il contagio nei luoghi di convivenza obbligata trova un ambiente più facile, ed è questo il motivo per cui proprio in quei luoghi l'attenzione deve essere massima. Io su questo le posso dire che il 22 di febbraio, il giorno dopo Codogno, noi avevamo già istituito l'unità di crisi della Regione Piemonte, prima ancora che ci venisse richiesto poi col successivo intervento della Protezione Civile del 3 marzo. Ma in particolare il 23 febbraio l'ordinanza sottoscritta da me come Presidente insieme al Ministro Speranza dedica un ampio spazio alle prescrizioni rigidissime per quanto riguarda tutte le strutture di comunità e anche quelle degli anziani, mettendo delle prescrizioni specifiche per quanto riguarda l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, la sanificazione, regole per il personale. E quindi l'attenzione è sempre stata alta dal primo momento, e soprattutto nell'unità di crisi c'è un'area funzionale che è operativa proprio sulle RSA, con un protocollo siglato con le prefetture di tutto il Piemonte, i presidenti di provincia e i sindaci, di modo che quotidianamente viene fatto un monitoraggio struttura per struttura, presente il proprietario della struttura e presente il direttore dell'ASL, perché l'ASL sarebbe l'azienda sanitaria locale, proprio perché le istituzioni, regione, prefetture, province e comuni si mettono a disposizione per aiutare. E mi perdoni se la interrompo, ma è un punto sul quale vorrei fare chiarezza. Allora, si è letto che proprio le ASL telefonavano pressantemente ai direttori di queste case di riposo per anziani, RSA, chiedendo di reperire posti letto dedicati ai pazienti Covid positivi, è così? No, guardi, si è fatta una delibera in Piemonte, era il periodo in cui ero in quarantena, perché io purtroppo sono stato anche malato in questa vicenda di coronavirus, ma è una delibera che è stata assunta il 20 marzo, io poi sono anche documentato nel dettaglio. Il 20 marzo c'era necessità di reperire posti, perché gli ospedali c'era il rischio che non potessero curare tutti, quando invece in Piemonte siamo riusciti, raddoppiando le terapie intensive e triplicando le subintensive, siamo riusciti a dare la possibilità di curare tutte le persone che ne avevano bisogno. E in quel momento di straordinaria emergenza la giunta regionale ha fatto una delibera dicendo questo: se ci sono delle strutture in Piemonte che hanno delle aree vuote, degli spazi indipendenti, con percorsi indipendenti, senza promiscuità di personale, si candidino, quindi diano la propria disponibilità. Dando la propria disponibilità, l'ASL competente manda alla commissione di vigilanza, la commissione di vigilanza fa il sopralluogo, verifica e certifica che i locali siano vuoti, indipendenti, non ci siano commissioni con gli ospiti, non ci sia promiscuità, e solo in quel momento, col verbale di certificazione, mette a disposizione i posti. Per cui l'atto è molto chiaro, è un atto emergenziale per reperire posti, ma è un atto che esclude nel dettaglio qualsiasi tipo di promiscuità, perché mi sembra evidente che non si possa immaginare di affiancare, neanche solo di avvicinare, una persona positiva con un ultra ottantenne, è chiarissimo. Cirio, un'ultima domanda sulla questione della riapertura, della fase 2, ha l'impressione che manchi una strategia nazionale? Ma guardi, io invoco una strategia nazionale, e invocandola evidentemente in questo momento non la vedo. Il governo non deve fare l'errore che ha fatto con le misure di contenimento. Se voi ricordate, le misure di contenimento di inizio marzo erano fatte per provincia. Pensate un po', io avevo province, manco il virus si fermasse in provincia di Asti e non andasse in quella di Cuneo. Questa disomogeneità delle misure di contenimento io credo sia stato un errore, tant'è che noi avevamo sempre invocato come regione una posizione unitaria. Lo stesso errore non lo si faccia adesso sulle riaperture. Però la situazione del Covid-19 è molto diversa tra la Basilicata e Milano, Brescia, Bergamo. È evidente. Forse costringere la Basilicata alle stesse misure di lockdown che forse saranno necessarie, adesso vedremo, nonostante le richieste del governatore Fontana, ma insomma si tratta di condizioni, di situazioni diverse, non crede? La penso esattamente come lei, infatti parlo di omogeneità territoriale e non di livello nazionale. L'omogeneità territoriale vuol dire che però la provincia di Torino non può avere misure diverse dalla provincia di Pavia, mentre può averle diverse dalla provincia di Matera, mi sembra ben evidente. Invece nella gestione del contagio, sulle misure di contenimento, si erano fatte diversità tra la provincia di Alessandria e quella di Novara. Allora capisce che il ragionamento che noi facciamo è l'omogeneità di aree geografiche, che può essere nel nostro caso ad esempio il nord-ovest. Io credo che sia una scelta obbligata. Immaginare che uno a Pavia possa aprire, ad Alessandria no, con pochi chilometri di differenza, un'interconnessione di strutture, di aziende, di personale, di centinaia, di migliaia di persone, io credo che non sia una scelta razionale. Per cui io invoco una strategia nazionale, sono a disposizione e soprattutto continuando nella politica del rigore, delle misure di contenimento, lavoro, perché nel momento in cui le condizioni saranno pronte, noi non dobbiamo perdere neanche un secondo, dobbiamo in quel momento essere nelle condizioni di tirare sulla saracinesca e farci trovare pronti. Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, grazie, buona giornata e buon lavoro. Buon lavoro anche a lei. Grazie a voi, buona giornata. Prima di andare alla pausa, voglio salutare, abbiamo il tempo per una prima domanda, a Paolo Gasparini, professore di genetica medica presso l'Università di Trieste, direttore del Dipartimento di Diagnostica Avanzata dell'Ospedale Materno Infantile Burlo Garofolo. Buongiorno Gasparini e benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professor Gasparini, che stima in 10 milioni i contagiati italiani? Ma noi abbiamo fatto una valutazione di tutta la popolazione che lavora presso l'ospedale, tra amministrativi o ospedale, personale sanitario di vario livello, e siamo arrivati a una percentuale globale intorno al 17-18%, che se fosse rapportata su scala nazionale corrisponderebbe alla cifra che lei ha detto. Più o meno un 10%. Ci arriviamo, nel dettaglio, ci arriviamo nel dettaglio a tutto questo, ma dopo la pausa. Mattino. Ed eccoci di nuovo, vi aspettiamo come sempre al 349-238-6666 per gli sms e messaggi su WhatsApp, anche audio, e all'800-24-0024 se volete intervenire in diretta. Siamo appunto con Paolo Gasparini, che è professore di genetica medica all'Università di Trieste. Prego Maria. Professore, vorrei capire con lei qualcosa di più sui test sierologici. Entro l'inizio del prossimo mese dovrebbero essere a disposizione 150.000 test su base nazionale, ma l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto sapere che il test noi non potremmo considerarlo un patentino di immunità. Chi risulterà aver sviluppato gli anticorpi non è che per questo possa avere un lasciapassare, diciamo, lavorativo. Questi test saranno utili o no? E come potranno essere utili? Ma questi test, che sono poi i test cosiddetti rapidi, sono utili perché permettono di fotografare lo status della popolazione, quindi permettono di capire ad esempio quant'è la percentuale di popolazione che verosimilmente è entrata in contatto con il virus e verosimilmente in moltissimi casi non ha manifestato nulla o ha avuto dei sintomi molto molto scarsi. E questo permetterà di arrivare a definire delle strategie per la fase 2 che sono essenziali. Questo paese deve ripartire e avere anche l'informazione, oltre ai tamponi che identificano la presenza o l'assenza del virus, la definizione anticorpale è uno strumento in più per aiutare a passare alla fase 2. Poi è chiaro che ci sono test molto più sofisticati, ma che richiedono anche del tempo di esecuzione, che permettono di definire in maniera molto precisa la quantità di anticorpi che uno ha. Poi rimane sempre il grande capitolo che va ancora risolto, se l'immunità da Covid-19 dura 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, un anno o via dicendo. Un anno, che facciamo? Ma se durasse un anno ci ritroveremo più o meno in una situazione a cui siamo normalmente abituati, perché i virus dell'influenza hanno un comportamento simile, tant'è che in genere chi vuole proteggersi si vaccina una volta all'anno. Quindi è semplicemente così, e tra l'altro tra un anno forse potremmo anche avere il vaccino, questo naturalmente non si sa. Lei è tra i firmatari di questo documento per l'avvio della fase 2, professor Gasparini, sì. Appunto la fase della appunto riapertura. Per arrivare alla riapertura, se, come ci diceva, i test sierologici sono, ci servono solo epidemiologicamente, mi sembra di aver capito, no? Per capire quanti di noi sono entrati in contatto con Covid-19, chiaramente per la riapertura serve fare più tamponi, no? Immagino che la conclusione alla fine sia questa. La Lombardia dice mancano i reagenti, ci sono difficoltà a far lavorare i laboratori. Cosa manca? Quali sono i problemi, Gasparini? Ma io, anche dall'esperienza che abbiamo fatto qua presso il Bulo, dove noi abbiamo fatto l'analisi combinata a tutti i dipendenti di tampone più anticorpo, l'insieme delle due dà un dato molto preciso. E le faccio un esempio: tampone negativo, anticorpo positivo, ho una buona probabilità che quella persona abbia già avuto un contatto, quindi ovviamente potrebbe rientrare al lavoro mantenendo tutta una serie di sicurezze, però diversamente rispetto a quello che è tampone negativo, anticorpo negativo, il quale invece ha un rischio assoluto non essendo mai entrato in contatto col virus. Detto questo, è indubbio che l'Italia non ha problemi di tecnologia né di esperienza nel condurre studi, analisi di decine, centinaia di migliaia di tamponi al giorno. Il problema indubbiamente esiste nel reperire i reattivi di base che in gran parte dei casi vengono prodotti all'estero oppure sono agganciati a strumentazioni ad elevato contenuto tecnologico che è prodotta comunque all'estero. Le pongo una questione di buonsenso, non particolarmente scientifica, ma forse ci può aiutare a capire come fare. Abbiamo letto che quando progressivamente si tornerà a una paranormalità ci saranno due diciamo fasce di età che dovranno attenersi a comportamenti un po' più vicini al lockdown, quella degli ultra settantenni e quella diciamo dei ragazzi, dei giovani fino a 18 anni, anche perché non li mandiamo a scuola se poi come usa fare normalmente, come è normale alla loro età, il pomeriggio si ritrovano in gruppi di 10, 15, 20, praticamente allora è inutile non aver riaperto le scuole. Secondo lei come sarà possibile controllare una quantità di ragazzi che dopo essere stati tenuti in casa un mese e mezzo alla fine scalpiteranno? Non è un wishful thinking, una bella aspirazione che però praticamente non sarà possibile applicare? Ma guardi, nel documento che abbiamo firmato ci sono tutta una serie di indicazioni, alcune delle quali si possono tranquillamente applicare anche alla categoria dei più giovani. Uno ovviamente è quello di indossare i dispositivi di protezione, le mascherine, due è quello di tracciare. La tracciabilità dei soggetti ha un ruolo fondamentale, anche perché c'è un altro aspetto: noi possiamo anche blindare i nonni tra virgolette, ma se poi i nipoti che girano circolarmente vanno dai nonni, e questi non fanno altro che, è inutile tenerli segregati, né è pensabile, è ipotizzabile tenere un'intera generazione di individui diciamo sopra i 65-70 anni lockdown per ancora mesi e mesi e mesi. E questo è un buon punto. Sentiamo qualche ascoltatore. Carmelo Lauricella, ce l'abbiamo? Qualche WhatsApp audio dai nostri ascoltatori? Via. Visto che parliamo di sanatoria di tante persone che appunto devono essere regolarizzate, altrimenti non raccogliamo né frutta né verdura, ma tutte le persone che hanno il reddito di cittadinanza non possono, è una fonte di lavoro, quindi magari si potrebbe utilizzare anche loro. Ma perché bisogna pagare con il reddito di cittadinanza le persone per stare a casa, che stanno a casa, non sono senza lavoro, e poi bisogna regolarizzare i migranti o far venire persone dall'estero, diciamo, per farli lavorare? Tutte queste commissioni, chi è che le paga? Non è che sono tutti amici degli amici e che poi pensano di essere i super geni e vengono pagati poi da noi alla fine per niente? Oh, vari argomenti, non per il professor Gasparini naturalmente, però a commento vorrei generale all'ultimo nostro ascoltatore. A partire di sì, vai. Sì, dunque, intanto la task force di Vittorio Colao e immagino anche tutte le altre, anzi sono quasi certa, prevede la presenza di persone che lavorano gratuitamente, quindi non le paghiamo. Ah, tra l'altro non gli paghiamo neanche le spese di trasporto in questo momento, perché fanno tutte le riunioni via web. Però se una cosa abbiamo imparato in questa drammatica circostanza, e credo che forse il professor Gasparini potrà dirci come la pensa tra pochi secondi, se una cosa abbiamo imparato è che servono le competenze. Noi dipendiamo molto da quello che ci dicono i vari comitati scientifici, gli epidemiologi, i medici, ed è giusto che sia così, perché di fronte a un virus non possiamo certamente improvvisarci noi medici, non possiamo fare i medici da bar. Ecco, così penso che sia necessario valutare le competenze anche su altri temi. Non per niente appunto è stato scelto un manager di provata competenza. È finito il tempo forse della superficialità, e forse tornerà il tempo delle persone che possono dare un contributo perché sanno le cose. Non lo so, professor Gasparini, la dicono in molti questa cosa, e bisogna vedere. E comunque mi permetto di aggiungere, poi la decisione finale spetta alla politica, che deve contemperare varie esigenze. Gasparini, comunque, prego. No, io concordo perfettamente. È un po' strano un paese che prima accusava l'assenza di informazioni o di non aver ascoltato gli esperti, adesso si lamenta per un eccesso di esperti. Gli esperti ce n'è bisogno, questa pandemia ha dimostrato la necessità di consultare costantemente persone che hanno la professionalità, e ricordo che per esempio dell'appello firmato dai 150 esistono esperti di tutte le discipline. La pandemia non comporta solo problemi di tipo medico, sanitario, biomedico, ma comporta problemi di tipo giuridico, di privacy, di libertà, tutti aspetti che devono essere di tipo economico, volevo dimenticarli, e tutti aspetti che devono essere presi in considerazione, e quindi se ci sono degli esperti che possono dare una mano, benvenga. Sì, occhio su questo, ad una piccola sottigliezza, perché Alberto ci scrive, un ascoltatore: sì, ma la politica qualche responsabilità se le assume? Mi sembra di no. E qua entriamo su quello che secondo me è un grande tema, cioè il fatto che, appoggiandosi per così dire e attendendo le opinioni dei comitati tecnico-scientifici, delle task force, dei gruppi di lavoro, la politica finisca per così dire per lavarsene le mani, cioè non avendo la forza di prendere una decisione che sia una decisione forte, poi finisca per lavarsene le mani e dire vabbè, ci pensano i tecnici e noi facciamo solo quello che ci dicono i tecnici ed esclusivamente quello. Adolfo, dalla provincia quello di Como. Quello non sarà possibile. Alla fine la politica dovrà decidere, però vediamo che anche in un paese dove c'è un presidente che decide, perché Macron ha dei poteri che per esempio il nostro presidente Mattarella non ha, e nemmeno Conte, eppure anche Macron ha detto noi ammettiamo con molta umiltà, la parola umiltà non gli appartiene granché ma l'ha pronunciata, di non sapere e di dover dipendere per certe decisioni da chissà. Poi però le decisioni vanno prese. Esatto, vanno prese. Poi una domanda di nuovo a Gasparini su questo, sul tema della scienza, cioè senza entrare, ripeto, con le parole sono un po' improvvide del ministro degli affari regionali Francesco Boccia, che nei giorni scorsi ha chiesto certezze granitiche alla scienza, però c'è un tema su come è stata la comunicazione scientifica in questi giorni, su come hanno parlato i famosi esperti e un po' sulla confusione che mi sembra abbiano ingenerato nella popolazione. Però questa domanda la riserverei per Gasparini tra un attimo. Prima Adolfo dalla provincia di Como, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo solo dire, nessuno si assume la responsabilità, anche perché la magistratura dopo interviene. Qui ci vuole un uomo abbastanza forte o molto forte che si prende la responsabilità, come un generale in guerra. No. Manda all'assalto i soldati, muoiono. e poi perde la guerra. Quando sentiamo l'uomo forte, quando sentiamo l'uomo forte, la responsabilità. Quando sentiamo l'uomo forte, Adolfo, sì. Quando sentiamo l'uomo forte, poi col suo nome, insomma, un filo di preoccupazione. Paolo Gasparini, allora mi dice un po' su questa cosa. Insomma, pensi solo all'esempio delle mascherine, no? Siamo passati da non servono, servono solamente agli infetti, poi le dobbiamo mettere tutti, sono fondamentali. Capisce che un po' di confusione su questo fronte il mondo della scienza, il mondo degli esperti ce lo ha creato. Ma questo capita proprio perché la scienza non è granitica e quindi anche nel mondo della scienza, della cosiddetta scienza, ci sono persone che hanno opinioni parzialmente diverse, soprattutto in situazioni come questa, dove si ha a che fare con un virus che non è un virus nuovo, insomma non è che appartiene, non è un virus totalmente nuovo, è un nuovo membro di una famiglia in cui ci sono vari cugini che conosciamo molto bene. Poi è vero che si sono stati mescolati molte volte politica, scienza, disponibilità, nel caso come le mascherine, con idee che sono state poi in parte mediate. Ritorno brevemente a una situazione. Noi dobbiamo definire una via di uscita che deve essere basata su dati scientifici. Poi è chiaro che la politica dovrà decidere, e dovrà decidere in Italia anche su base regionale. Sentivo prima l'intervista al presidente della regione Cirio, e perché non è pensabile che una situazione quasi ottimale come quella della Basilicata, dell'Umbria, del Molise, della Sardegna non permetta a chi vive in quelle regioni di poter perlomeno riprendere a lavorare, ripartire, sì, con l'economia e rifare tutta una serie di cose che altre regioni dove la situazione è ancora molto complicata, e mi riferisco prevalentemente a Lombardia e Piemonte, non dovranno che vedere dilazionata nel tempo. Però bisogna ora decidere come farla, sì, e farla basandosi su precise informazioni scientifiche e pratiche, che poi devono essere alla fine decise, cioè sulla base di quello che diranno gli esperti, però la politica deve assumersi le sue responsabilità da questo punto di vista. Allora adesso andiamo in pausa, ma prima il messaggio di Emilio da Forlì che dice: l'unica certezza che ci ha dato la scienza è che dobbiamo lavarci le mani, sarà un complotto di Big Soap, cioè le aziende del sapone. No, non credo proprio. Pausa. Mattino. Care partite IVA, dite che sono una miseria 600 euro, ma fino a ieri è stato quello che avete dato ai vostri dipendenti per un full time. Ora dovete capire anche voi come si vive con 600 euro. Buongiorno, ma mi sembra che tutti sparano contro Fontana, ma lui non sta dicendo io apro e non me ne frega niente di quello che dice il governo, lui sta semplicemente dicendo: io spero di aprire, voglio riaprire, voglio mettere in campo tutto quello che serve per riaprire, ma aspetto chiaramente quelle che sono le linee del governo. E sicuramente, visto che il governo ha detto che al 4 finirà questa quarantena, lui spera che al 4 si possa ripartire. Ma la data del 4 maggio è stata stabilita dal governo? Si può sapere con che criterio è stata stabilita? Oh, c'è una marea di politica in questa vicenda, anche sullo scontro, Maria, no, tra Regione Lombardia e governo, tra i comuni, per esempio Milano e la stessa Regione Lombardia, una marea di politica. Sì, c'è anche una tensione che a un certo punto però dovrà trovare un modus vivendi. Vedo che comunque il presidente della Regione Lombardia, che si dice stufo di essere accusato, ammette che vuole trattare col governo. È normale che ci siano delle tensioni, perché il governatore della Regione Lombardia deve tenere conto anche delle tante pressioni che gli arrivano. La Lombardia è, lo sappiamo, il polmone dell'economia italiana. Non mi pare che comunque sia una cosa che porti da nessuna parte il conflitto. Non mi pare che porti vantaggio a nessuno, no. Tanto comunque non si vota sì, per le regionali. A breve, non, tanto più non si vota in Lombardia, quindi anche l'elemento, come dire, di campagna elettorale permanente che caratterizza la vita politica italiana, in questo caso, per fortuna, non c'è. Ecco, pensassero a mettersi d'accordo nel modo migliore. Sì, che sta fastidiosamente riprendendo questo clima da campagna elettorale permanente. Oh, voglio dire invece all'ascoltatore che parlava delle partite IVA che è veramente offensivo, abbia pazienza. Ci saranno partite IVA che pagano i loro collaboratori 600 euro, ma ci sono tante che pagano i loro collaboratori regolarmente, l'hanno fatto bene e li pagano bene e che adesso vivono una fase di difficoltà. Davide, dalla provincia di Pesaro, buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire sul tema della nomina e diciamo del modo di agire della nostra politica che praticamente esegue e dice e fa quello che dicono gli esperti. Ecco, purtroppo i nostri politici non hanno nessuna competenza specifica, non in questa materia ma in tantissime altre materie. Sì, c'è un avvocato, ci sarà qualche laureato, ben venga, però la loro competenza è a un livello bassissimo. Nominano degli esperti, quindi basandosi sulla loro capacità di individuare i personaggi giusti, poi questi nomi di esperti risultano quelli che sono, i vari Arcuri, Colao, eccetera. Ma dove vogliamo andare con questa gente? Non le piace. No, mi scusi, piace. Non ho capito. Lei sta dicendo che sono stati nominati dei soggetti che non sono esperti? Sì, molto. Secondo me non hanno un'esperienza specifica in parecchi campi, ma non è. Il fatto è che sono nomi ripetuti e ripetitivi, ben conosciuti per altre cronache. Che abbiamo le università. Cioè, mi perdoni, Italia. Per quali mi perdoni, scusi, Vittorio Colao ha gestito per 10 anni Vodafone Mondo, va bene? Ha portato questa azienda a un grande successo, altrimenti poi non l'avrebbero chiamato alle responsabilità che ha assunto. Mi dice per quale motivo un paese come l'Italia non dovrebbe chiedergli un contributo, visto che lo fa tra l'altro anche gratuitamente? Guardi, io non ho niente contro Colao, io dico solo che ci sono persone preparatissime nel campo dell'economia e nel campo delle emergenze. Vabbè, e in moltissimi Davide, mi scusi, la fermo non per altro, non perché il discorso non sia interessante, il dibattito non sia interessante, ma semplicemente che stiamo esaurendo il nostro tempo, nel senso che tra 20 secondi dobbiamo chiudere. Comunque, il tema di Davide era sempre i soliti nomi, però se questi nomi sono di qualità, insomma, non vedo perché non usufruirne, per così dire, come già fatto in passato. Grazie a Paolo Gasparini e cara Maria, ci risentiamo domani. Domani no. Fine settimana. Ci sentiamo lunedì alle 8:20. Ciao. Ciao a tutti.